Però anche lì ho detto, questo amico mi vuole convincere a prepararmi almeno le lenze, il resto funziona tutto, però sai cos'è, per andare poi una volta ogni 1000 anni. Poi sai com'è adesso la storia, no? Che prima mi innescavo i vermi, vedevo tutto bene da vicino, da lontano, adesso mi devo mettere i piccetti per innescare i vermi e tutto, montare girelle, cioè gli occhiali per vedere da vicino. Come vado a lanciare mi devo vedere mettere gli occhiali per la miopia, per vedere dove cacchio sto tirando. Comincia a diventare più l'equilibrio, seguono simbilico sugli scogli e già non è più come avere 20 anni. Non mi sento così sicuro se sono, sai, su scogli un po' non belli a livello, e cerco di capire già in bacenda, la vecchiaia è carrogna. Ma tra pescare o dal molo oppure pescare dalla spiaggia? Io ho visto che al molo l'altro giorno sono andato a parcheggiare la macchina perché siamo andati a vedere la musica, roba del genere, e ho parcheggiato la macchina al molo e c'era gente che stava pescando, diceva si poteva entrare, ma cosa? Già lo sa la gente che doveva entrare, con il fornitore già lo sanno dove passare, e stavano pescando in 4 o 5. Oh, no, perché sentivo che rispetto a una volta tipo Molo Asico, vabbè che lì io non mangerei mai il pescato lì, ma adesso tutto vietato, tutto, stanno vietando tutto già a tutti i livelli, stanno facendo leggi sempre più restrittive in tutti i campi. Per esempio anche solo 20 anni fa andare a Cimanno a dormire una notte in tenda, non dico a campeggiare tipo campo nomade, ma a dormire, proprio giusto per dormire e poi ripartire l'indomani fresco e riposato. Adesso ti castagnano malamente, sanzioni, coso. Stanno esagerando, forestale sempre lì che ti fiagga nelle chiappe del culo a vedere cosa stai facendo, se stai accendendo il cerino, se stai buttando cicche, stiamo esagerando. Vabbè che la gente è sporca, perché è vero, però... Sapevo che ce l'abbiamo voluto noi, perché prima in pineta si trovavano le buste appese agli alberi, le buste con la mondetta, cosa le costa? Noi ce la portavamo via, il primo cassonetto che trovavamo la buttavamo, oppure ce la portavamo vicino a casa, la buttavamo vicino a casa, non ne abbiamo mai lasciato. Raccoglievamo tutto, anche se cadeva un quarto di chilo, lo raccoglievamo. Basta che uno abbia un po' di testa e rispetti la natura. Queste leggi non le farebbero, invece così vedono che la gente se ne frega, l'ha perduto tanti bussi in terra, eccetera eccetera. Anche adesso lo sai che anche chi ha animali tropicali deve fare un corso specializzato, da gennaio devi fare il corso a pagamento. Per fare cosa? Chi ha animali tropicali, serpenti, cosa ti posso dire, pappagalli, tutta questa roba qua. Cioè solo per averli in casa, per tenerli, ammazza, oh. Manco avessi qualche drago di Komodo. Cesso. E così è. Sì, noi facevamo così già, noi tutto nelle buste, noi come arrivavamo in pineta, ti parlo delle persone dell'epoca che frequentavo all'epoca, che fossero spiagge, noi non lasciavamo un cappello, ho detto non devono nemmeno accorgersi che siamo stati qua, non lasciavamo nulla, molti lasciano bottiglie di birra anche rotte, che molti sono locali, poi noi andiamo a dire sono i turisti che sporgano, non sono i turisti, sono i birroi locali soprattutto che fanno certe cose, più ci sono, vabbè, molti turisti indisciplinati, però ce la stiamo tirando anche troppo con la storia di quella della pelosa numero chiuso, ti devi lavare i piedi, devi parcheggiare in casino prima di arrivare, è troppo controllato, ma troppo ti fanno aprire le borse per vedere se, che ne so già, stanno esagerando in tutto, veramente esagerando. Innanzitutto prima devi prenotarlo al computer il posto, poi ci devi andare con le stuoie, non puoi usare asciugamani, non puoi usare, devi pulirti i piedi bene prima di andare via e lasciare la sabbia, se no poi ti porti via la spiaggia. Ma io cazzo, facciamo ridere le persone. Prima prima già c'erano i turisti che si prendevano la sabbia, si prendevano le rocce, questo e quell'altro, ma quello va bene, ma cazzo, se uno si sporca i piedi di sabbia non è che devi io vabbè lo faccio sempre, c'ho il bidone in macchina, quando esco la cosa mi lavo con l'acqua calda, perché a furia di stare sotto il sole si scalda l'acqua, e beh, me li lavo con l'acqua calda i piedi, me li metto nelle ciabatte che uso e via, me li asciugo con l'asciugamano, poi sono ritorno pulito a casa. Ma addirittura, ma se si fanno, guarda, mio cugino lavora in Irlanda, era Maria Pia uno di questi anni, non so, e c'era il bambino piccolo, o la bambina, o entrambi, che loro, i figli loro, che stavano facendo un castellino in sabbia col secchiello, e uno locale si è sentito in dovere, forse vedendoli un po' di etnia un po' diversa, che la moglie è filippina, si è sentito un locale di fargli osservazione che la sabbia, non so, non bisogna rovinare, manco avessi fatto un buco, uno scavo di 100 metri, un pozzo, e sta esagerando la gente, a parte che certi dovrebbero farsi gli affari propri. Stanno sempre a controllare cosa fa uno, se si prende un bicchierino di sabbia, un coso, e boh, vabbè, non puoi pigliare conchiglie, nulla, non puoi toccare nulla adesso. I ricci non so nemmeno più se puoi farli liberamente. Ma a proposito, già tanti anni fa, quando c'era mio cugino che era maggiorenne, così 18enne, si andava liberamente alla Pelosa, e noi ci stavamo tutti vestendo con le mute, tutto preparando fucili e tutto per entrare in acqua, no? Entriamo in acqua e vedevo uno che guardava, dice perché dice, i bagnanti o chi erano quelli in spiaggia si stanno lamentando. E noi abbiamo detto, di cosa si stiamo lamentando? Che ci siamo messi le mute in spiaggia per andare a largo. Cioè, c'è gente a questi livelli, magari turisti, quelli fiaghini, che non sopportano il Vucumpra che passa lì, infatti è vietato anche il Vucumpra di vendere collanine. E aveva detto mio cugino, perché non vengono a lamentarsi con me? Però come si devono lamentare? Non con lei. Poi gliene dico quattro io, noi siamo vestiti e basta per andare al largo, non stiamo pescando in un metro d'acqua, per carità la gente. Una cosa se carichi il fucile in spiaggia, come ha fatto uno a Plattamona, e l'hanno arrestato, perché questo finanziere l'ha visto caricando il fucile in spiaggia, gli ha fatto osservazione, gli ha puntato il fucile. Questo finanziere è andato, noi eravamo al posto di polizia, dove praticamente, non so, c'era la polizia, stavamo lì al lido della polizia. Sono scesi i poliziotti, si hanno preso il borsello con la pistola, cose, sono scesi, l'hanno preso questo ragazzo che ha puntato il fucile a questo finanziere, e lui ha detto che il fucile era guasto, che non funzionava, hanno preso il fucile, l'hanno caricato e l'hanno sparato all'albero. Guasto, dalle buste le manette e girare bussando. Perché questo qui ha puntato il fucile, però, perché se no cosa fai? Per metterti la butta non succede niente. Io lo buttavo in acqua il fucile, lo facevo galleggiare e poi lo caricavo quando ero in acqua. Sì, sì, quello è grave già, quello è grave, perché metti che ti si roba il meccanismo di scatto del fucile, parte il colpo e trafiggi la testa di qualcuno, quello no, il fucile va caricato in acqua e anche a una certa distanza, poi sarebbero 500 metri, ma pensa che a me una volta la motovedetta mi aveva visto più in zona Plattamona, io vedevo la riva lontana, le persone sembravano formiche, nemmeno, no, e beh, ero a soli 170 metri. A me sembrava di essere lontano miglia, ero a 170 metri e mi avevano trovato un fucile carico, che poi non ero nemmeno a pesca, stavo così guardandomi i fondali, non avevo voglia di, se mi capita l'occasione. E volevano farmi, non mi ricordo se siano le lire o gli euro, forse avevo 2 milioni o 2.000 euro di verbale, insomma. Io ho detto, ma guardi, io non mi ero reso conto, poi è difficile determinare la distanza, cioè, vedendo la riva così lontana, non distinguevi nemmeno le persone. E dice, vabbè, la prossima volta siete attento e bla bla bla, lasciavo tutto, la boa, tutto quanto, dicevo, ero tutto in regola. A parte il fucile carico, diciamo, a meno di 500 metri dalla riva, capito? E poi ce l'aveva fregato una volta la Maddalena, sono entrato, però il fucile non ne avevo portato, c'avevo solo il pugnale attaccato, perché quello me lo portavo sempre, lasciava che ti impili in qualche rete, qualche cosa. E sono andato a farmi un giro per vedere il fondale. Ma c'era pieno di cozze, ma quante ce n'erano belle grosse. Ho cominciato con quello a mangiare le cozze, poi le buttavo e i pesci andavano a mangiarsene, si avvicinavano le orate grosse, e toccate, ma qua c'è un bel pesce. Sono uscito fuori, e meno male che le cozze mangiate le buttavo sott'acqua. Sono uscito fuori, mi sono trovato, come si chiama, la guardia costiera con la cartella aspettando a me. E mi fa, buongiorno, buongiorno, come stava pescando? No, niente, e come c'è il pugnale? Il pugnale lo porto sempre, perché una volta mi sono incastrato nelle reti e da quella volta lo porto sempre. Ah, no, perché ci hanno segnalato che stava facendo pescare subacqueo, qua è un parco, non si può pescare. Cazzo, io non sapevo nulla, ma... Eia, sì, sì, guarda, certe volte anch'io senza fucile mi piaceva guardare i fondali, magari mi portavo quelle microcamere tipo GoPro, quelle prime, le imitazioni cinesi, no? Per fare anche riprese, sotto, per provarle, dai, per passare il tempo, mi già. E qualcuno mi aveva però messo, dice, il coso nell'orecchio, la pulce nell'orecchio, dice, però se tu ti metti la muta, ti allontani dalla riva, metti che passi, cioè tu sei, dice, molto distante rispetto ai bagnanti, metti che passi un motoscafo, non ti vede, perché sei a pelo d'acqua, o magari un po' immerso, no? Sta risalendo, l'elica ti trancia, dice, anche se sei un bagnante, tra virgolette, perché non stai svolgendo attività di pesca, però sarebbe consigliabile portarsi una boetta, per la tua, dice, incolumità, come hai fatto tu, infatti è una cosa molto coscienziosa, diciamo, però se ti spingi abbastanza lontano, se sei a 30 metri non c'è tanto. Ebbene, io la bolla portavo sempre, ce l'avevo sempre qua all'uncino. Una volta mi ha anche salvato, perché mi sono incastrato facendo pesca sopra, che ho sparato un saragolo spanciato, sono entrato in questa tipo grotta, dai, poi non riuscivo più a uscire, mi sono incastrato, era pieno di ricci nella parete, mi sono incastrato, quando sono salito su ho fatto, poi mi sono attaccato alla boa, meno male avevo la boa, e mi sono ripreso, stavo per svenire. Minchia, no, infatti bisognerebbe sempre andare almeno in due in acqua, cioè troppe ne ho letto già di sub professionisti preparati con due polmoni d'acciaio eppure venuta la sincope, vabbè. Cosa volevo dire, poi certe volte già io ho visto anche situazioni da, cioè entrando solo proprio costume da bagno, maschera e pinne, e in certi punti c'erano tutte queste matasse di cavo abbandonato, non so se fossero filaccioni o quell'altra cosa, bollentini, e praticamente c'era un cormorano che era rimasto, probabilmente si era tuffato a catturare il pesce, che era rimasto già agganciato agli ami, ed è rimasto tutto avvinghiato a questa lenza grossa, ed è morto a metà altezza, tra il fondo e la superficie. E se uno ci finisce con la pinna, lì si avvinghia la caviglia, non riesce a risalire, cosa ne so io? A quel livello dovresti portarti allora sempre un coltellino, magari nascosto nel costume, se c'è una microtasca, un coso. Se quei coltellini anche solo taglia sagole, mi per tagliare le lenze. No, io lo mettevo proprio dove c'ho il polpaccio, lì c'avevo i lacci, lo allacciavo lì, proprio contro il subacqueo della crisi. Ce l'ho ancora, quello lì mi è rimasto, tutto il resto l'ho venduto. Vabbè, Marco, io ti saluto, dai, che devo andare, che tanto mi sta guardando come dire, io non andiamo, è già tardi. Vero, tesori, andiamo giù, sentite come mi guarda, dove ci sono vedendo, gira la testa quando gli dico andiamo giù. E io già, sì, l'avevo sentito già 20 minuti fa, l'avevo sentito guaire in diretta, quindi voglio uscire. Ok, già, guarda, mi ha fatto piacere che qualcuno, qualche anima viva ancora c'è. Colpa è anche mia, però, colpa è anche mia, che sto entrando a poco e niente. Qua rimane acceso, una certa volta rimane acceso, o sul canale sbagliato, col volume a zero, ho squalciato un bel, quindi... E quindi, da, quando capita sentiremo. Vedo che è entrata un bel di gente, un bel, quindi non riuscivo nemmeno a modulare. Va bene. Ciao già, ci sentiamo. Buona passeggiata, buon tutto, alla prossima. Grazie Marco, tanto noi abbiamo parlato lo stesso, dai, grazie per il questo e ci sentiamo alla prossima, dai, che Dio vuole sempre. Ciao, ciao, buona serata. Ciao Gianni, ciao.